Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Io senza capelli sono una pagina senza quadretti, un profumo senza bottiglia, una porta chiusa senza la maniglia. Tempi duri per i nostri capelli, sembrano brutti, spenti, senza tono, non tengono la piega, si sporcano, si spezzano e poi c'è la forfora. Insomma, ci danno dei veri e propri grattacapi, ma ecco qua è la buona notizia: noi non ci faremo mica abbattere da questo, perché quando il gioco si fa duri, i duri iniziano a giocare, quindi proviamo a capovolgere la situazione a nostro favore. Intanto non vi ho salutato, buongiorno, sono le 11:11 e siamo qua. Fatemi sapere al nostro numero verde 800 24 00 24 come stanno i vostri capelli. Oggi qua in studio con me il dottor Fabio Rinaldi, dermatologo a Milano e presidente della Fondazione di Ricerca per la Patologia sui capelli. Buongiorno. Buongiorno. Tutto bene? Bene, grazie. Dottore, noi stiamo uscendo dall'inverno, che devo dire è una stagione difficile per tutti e anche per i nostri capelli. È molto difficile. Il freddo e l'umidità rovinano il fusto dei capelli. L'inquinamento, che in questo periodo è inevitabilmente più importante, più alto, peggiorano queste condizioni, per cui i fusti tendono a diventare più opachi, tendono a fratturarsi, tutta la struttura si rompe. Ma la cosa più importante è che il cuoio capelluto si infiamma, spesso per colpa dell'inquinamento e delle condizioni atmosferiche, per cui tanto più aumenta questa irritazione e tanto più addirittura i bulbi stanno male. Per cui tipicamente ci può essere un aumento di caduta, una situazione di fastidio, di prurito, per cui vale la pena stare molto attenti. Lei ha citato i bulbi. Lei ha citato i bulbi, dottor Rinaldi, che sono veramente un microcosmo straordinario da cui la scienza impara, è vero? È verissimo. I bulbi dei capelli sono una meraviglia, io mi eccito tutte le volte che dobbiamo parlare di questo. La biologia dei bulbi è così difficile che è uno degli organi più complicati del corpo umano. Addirittura i bulbi dei capelli vengono utilizzati come modello per studiare il rigetto di organi come dei trapianti di organi come il cuore, il fegato, eccetera, perché è molto più complicato gestire un bulbo di capelli, che tra l'altro non è ancora stato né riprodotto né clonato, proprio per questa difficoltà. È bellissimo. Non siamo ancora riusciti, ma si riuscirà? Ma forse sì, si riuscirà, perché le conoscenze sono sempre maggiori, quindi probabilmente si riuscirà. Quello che stiamo facendo è conoscere sempre più nel dettaglio i vari recettori, i fattori di crescita che stimolano. Quello che ci manca è questa specie di soffio divino che messe insieme tutte le cellule, e sono tre tipi di cellule diverse, poi parte il motore e riesca a fare il capello. È anche stato possibile ricostruire un po' il bulbo, però in realtà poi vengono fuori delle cose che non sono capelli, quindi manca proprio l'inizio, l'accensione. La chiavetta per l'accensione. 800 24 00 24, questo invece è il nostro numero verde a vostra disposizione per capire qualcosa di più dei vostri capelli, delle vostre chiome, per mantenerli sani, per farli stare anche meglio, soprattutto per farli superare questo momento di passaggio che, come per noi, abbiamo parlato qualche puntata fa della stanchezza che caratterizza proprio i passaggi dall'inverno alla primavera, anche i nostri capelli sono stanchi, ma noi avremo modo di farli, come si dice, ripigliare. Le ragazze. Io stavo a casa, guardavo una partita di calcio. Di botto, la luce. Pum, salta tutto, non si vede niente. Che è successo? È saltato il contatore? No, è saltato quello proprio dalla cantina. Maledette voi e la vostra piastra, la piastra dei capelli. Pischello maschio, diciamo, i vecchiori di capelli hanno sti gel, il gel, prima di uscire ci mettono mezz'ora per il gel. Ora non è che ci sono i gel come c'era una volta, che avevamo noi il gel che mettevo, poi cadeva, diventava farina, mi ricordo, facevi così e si vola. No, loro hanno quelli lì, stu, grafic, tum, scolpiti, e a me mi si è rotta la brocca dell'acqua, io non avevo la cosa per attaccare, ho messo un po' di gel di questo che usano i ragazzi, proprio non si stacca più. Questi ragazzi hanno i capelli talmente duri che la sera quando arrivano a casa, poi li tolgono e li mettono sul comodino. Le ragazze usano la piastra, i ragazzi usano il gel. Dottor Rinaldi, facciamo anche un po' una distinzione di genere, non solo sul trattamento dei nostri capelli, ma come proprio come struttura. Ci sono delle differenze tra capelli maschili e quelli femminili? Sì, ci sono differenze. Normalmente i capelli femminili sono un pochettino più forti e più belli. Di solito hanno un diametro maggiore, nella media ovviamente, poi ci sono persone diverse, ma hanno dei capelli leggermente più belli, anche perché il bulbo è controllato da tante di quelle reazioni ormonali che normalmente sono più favorevoli nella donna che nell'uomo. Oh. E poi ci sono. E dai, questa mi piace. Ovviamente e poi? Uomini con dei capelli decisamente magnifici. Belli, ma per esempio l'incidenza della patologia più normale, della forma più normale di calvizie, che è l'alopecia androgenetica, è del 70-80% entro i 60 anni degli uomini, quindi voglio dire la maggior parte degli uomini, contro un 35-40% delle donne. Quindi i capelli sono leggermente diversi. Abbiamo Gabriele, ci chiama da Roma all'800 24 00 24. Buongiorno a lei e benvenuto. Buongiorno a voi, la ringrazio, complimenti per la trasmissione. Senta, io ho 43 anni e di solito dopo già due giorni da lavaggio ho tendenza ad averli grassi. Allora, il parrucchiere mi dice di applicare, io utilizzo sempre uno shampoo neutro, sì, di applicarlo senza bagnare il capello. Altri invece mi dicono no, prima è meglio bagnare il capello e poi fare la lozione. E poi non so quante volte lavarli in settimana, perché io sapevo da vecchie cose di nonna che più uno li lava e più si sfibrano. Allora, però ecco, io già dopo due giorni già ce l'ho grassi, quindi, e quindi non, deve lavarli. Qual è il certo procedimento migliore? Se applicare subito lo shampoo senza lavarli tanto, lavarli poco, ecco, poi si sfibrano. Hanno ragione le nonne, ha ragione il parrucchiere di Gabriele. Dottor Rinaldi, ma io credo che lavare i capelli sia una cosa complicata, bisognerebbe star lì a insegnarla esattamente come lavare i denti. I bambini si insegna a lavare i denti e i capelli anche, e i capelli vanno lavati il più frequentemente possibile, esattamente come i denti, esattamente come il viso e come il corpo. A maggior ragione anche in città, magari con un clima migliore di quello di Milano, ma a Roma l'inquinamento è altrettanto tanto, alto, certo. Più si inquina la pelle, come dicevamo prima, più la pelle si irrita, quindi esattamente come i denti i capelli andrebbero lavati tutti i giorni. Ogni tanto il compromesso è che se sono lunghi o se c'è tempo poco da perdere bisogna ridurre. Però si nota che più li lavi più tendono a sembra ingrassarsi. E allora c'è anche la teoria, posso dirle, sì, quella che io sento io, è che poi il capello in qualche modo si difende e allora ecco che se è grasso più lo lavi e lui dice aspetta me adesso, ecco, è vero o non è vero? O li laviamo male? Li laviamo male. La pelle tende a fare la sua quantità di sebo, che è il film idrolipidico che ci protegge dappertutto. In testa ci sono più ghiandole sebacee, per cui aumenta questo sebo. Sì. Ma se noi li laviamo tutti i giorni o con una frequenza buona, direi non meno di 3 volte alla settimana, proprio è il minimo indispensabile. Per essere puliti. Per essere puliti, lei, ma anche per evitare infiammazioni della pelle. Okay. Per cui per esempio la caduta dei capelli o addirittura l'innescare di certi problemi. Certo, dobbiamo lavarli con degli shampoo molto delicati, esattamente come scegliamo un sapone molto delicato. Cosa leggo sulle... Quando voi dite molto delicati io vado in tilt, perché non riesco mai a capire che cosa devo leggere. Oh, anch'io, perché... ci sono complicazioni di tensioattivi, sì, però per esempio la dicitura è shampoo per lavaggi frequenti, ci o fidiamo, shampoo per sì, ci fidiamo, ormai ci sono, sì, dei prodotti magnifici, sì, anche di grande distribuzione. Dalla grande distribuzione in avanti possiamo, assolutamente, certo. E effettivamente qui la cabala è che bisogna mettere un po' di acqua sul palmo delle mani, un po' di shampoo, miscelare il tutto e, sì, distribuirlo sul cuoio capelluto. Non senza acqua, perché diventa anche complicato e poi addirittura i tensioattivi si legano fin troppo alla struttura del fusto, ma un po' d'acqua e un po' di shampoo mischiati, ci si lava e poi ci si sciacqua bene, sciacquando bene, portando via tutti questi residui di tensioattivi, di schiuma, e la schiuma è fondamentale, un po' di schiuma è utile perché è la schiuma che porta via lo sporco, quindi È una manovra che si deve imparare, importante. Nell'ultimo risciacquo si diceva acqua e aceto, funziona? È inutile o si rischiano danni? No, danni sicuramente no, al di là del mettere l'aceto, il pH si acidifica un po' con l'aceto, quindi il cuoio capelluto effettivamente sta un filino meglio, ma ci sono degli shampoo talmente controllati adesso che con un ultimo risciacquo normale si può fare. Io vorrei che lei aiutasse le nostre ascoltatrici ascoltatrici e i nostri ascoltatori a fare una specie di test per valutare la salute dei capelli, anche perché solitamente non siamo contenti dei capelli che abbiamo e quindi li vediamo sempre più brutti o più sofferenti di quello che in realtà non sono. Vorremmo sempre delle chiome straordinarie. Invece magari i nostri capelli vanno bene così, abbiamo quei capelli lì, magari non sono mossi, grossi, ma sono capelli sani. Allora, se lei ci fa ci dà qualche stimolo, noi proviamo a capire quanto sono in salute le nostre chiome e da questo magari partire per capire se possiamo magari aiutarle a mantenersi sane, oppure è necessario qualche piccola modifica alla nostra vita. Può essere una correzione nella dieta, un pochino più di attenzione, come lei sottolineava, nel lavaggio o nell'asciugatura. Dottore. Allora, i capelli devono essere, quando sono sani e quindi quando ci piacciono più o meno, ma comunque sono sani, devono essere intanto luminosi, devono avere un aspetto lucido, bello, uniformi come struttura, come diametro. Ci si può guardare un po' in controluce, anche a uno specchio, farsi guardare, e tanto più ci sono capelli, soprattutto nella parte frontale o del vertice, con capelli che sparano un po' in alto, come se fossero elettrici, vuole dire che i fusti non sono fatti così bene. Spesso sono miniaturizzati quando li guardiamo con l'epiluminescenza, che è la tecnica più utile, proprio vediamo una netta diminuzione del diametro. Oppure questi capelli che tendono un po' a fratturarsi e a rompersi. Spesso molte persone pensano di avere una caduta importante, quando soprattutto donne che hanno capelli lunghi, in realtà sono fratture a livello di una lunghezza del fusto, per cui non sono fatti bene e tendono a rompersi. A occhio sembra che ci sia addirittura il pallino del bulbo, insomma, quindi ci si può confondere. Quindi devono essere belli luminosi, belli lucidi, devono avere una struttura compatta, quindi i capelli anche senza quel gel di cui parlava Fiorello devono rimanere abbastanza aderenti alla testa. Non devono esserci troppi spazi, ovviamente, perché sennò vuol dire che sono un po' diminuiti. Per quanto riguarda l'attaccatura? Deve essere, se uno non ha problemi, deve essere regolare, con tanti capellini fini proprio all'inizio. Li dobbiamo vedere a qualunque età. Eh sì, perché se non li vediamo vuol dire che non ci sono più. Certo, che se ne stanno andando. Esatto. Quindi occhio all'aspetto arruffato dei nostri capelli, ai capelli che sembrano non crescere. Che sembrano non crescere. Non crescere, sembra siano fermi lì, alle spalle dove li teniamo. Per esempio le donne possono accorgersene. Proprio ieri ho visitato una ragazza che mi poneva questo problema ed era vero. Cioè, se dalla crescita facendo una tinta o dei colpi di sole non si vede che nell'arco di qualche mese aumenta il pezzo di capello non tinto, anche di uno o due, effettivamente ogni tanto ci sono dei blocchi. Allora le attenzioni alimentari, piuttosto che qualche osservazione particolare, diventa utile. È un primo segno di qualcosa che non va. Abbiamo Silvia che ci chiama da Modena e Sara dalla provincia di Milano. Silvia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno, dottore Rinaldi. Buongiorno. Eccoci. Volevo chiederle, dottore. Sì. Riguardo alla calvizie giovanile, mio figlio, 29 anni, non è ereditarietà i nonni, i genitori abbiamo i capelli sani e abbastanza senza calvizie. Sì. Però questo ragazzo ha un po' la cute grassa e ha provato ad usare degli shampoo tea tree, calendula, molto delicati. Per seborregolatori. Quello che chiedo al dottore Rinaldi è questo: deve fare una cura ormonale o deve solo un po', riguardarsi con l'alimentazione? Mi può dare qualche consiglio riguardo? Grazie Silvia. Allora, mamma preoccupata, ragazzo 29enne. Non ho capito però se ha o non ha un problema di calvizie. No, io ho capito di no. Che non ce l'ha, solo i capelli grassi. Non ci sono dei casi in famiglia con io questo capito. Forse il consiglio generale più utile sempre è potrebbe andare a farsi controllare da un dermatologo, così stabilisce a che livello di problema ci può essere. Se non ha un problema di calvizie, se ha solo i capelli grassi, sicuramente non deve fare cure ormonali, ma non si farebbero neanche in caso di problemi più seri. Quindi assolutamente deve controllare. Al limite ci sono delle cose che si possono utilizzare, qui il dermatologo potrebbe essere utile, anche il farmacista, delle lozioni che riducano la formazione del sebo, senza certamente arrivare a cose più importanti. Sara dalla provincia di Milano, buongiorno e benvenuta. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno dottore, buongiorno. Io ho una particolarità, i miei capelli sono sottilissimi e non crescono, cioè io quando raggiungono la lunghezza appena sotto l'orecchio devo tagliarli, perché se cerco anche di farli crescere sono proprio brutti, sfibrati e rimangono oltretutto svolazzanti, cioè non svolazzanti che è quello che dicevamo prima. È quello che diceva prima, esatto, sul fatto che appunto non crescono e oltretutto cerco di tenerli in un certo modo perché hanno sennò quell'aspetto arruffato, che non è disordine ma è proprio segno del capello che si è un po' miniaturizzato, no, dottor Rinaldi? Allora Sara è quindi destinata a tagliarsi sempre i capelli perché tenendoli corti evita questo effetto, e poi noi pensiamo sempre che tagliandoli si rinforzino un po' l'effetto Prato, che voi ci dite che non funziona, ma noi dà l'impressione di fortificarli. Anche qui io credo che Sara debba capire come mai questi capelli non crescano. Lo dicevamo prima, i capelli sono una cosa complicatissima, per cui se non crescono bene, se hanno qualche problema, c'è sotto qualche cosa che non li fa crescere bene. Per esempio l'alimentazione in questi casi potrebbe essere uno dei casi più specifici. Allora anche qui un consiglio: vada a farsi vedere da un dermatologo in modo da capire se c'è un problema o no. Ci sono degli esami che permettono di capire quali sono le carenze che stanno alla base di un capello non sano. Non cresce. Abbiamo in linea con noi il nostro dottor Luca Voledo. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Naturopata. Ero molto tentata di darle subito la linea, dottore, perché abbiamo toccato il tema dell'alimentazione più volte e in effetti un po' come la nostra pelle, come tutto il nostro organismo, anche i nostri capelli risentono di un tipo di alimentazione più o meno adeguata. Sì, esatto, stavo ascoltando la telefonata anche di Sara, dove parlava di capelli sfibrati che crescono poco. Spesso una delle cause più importanti, al di là di eventuali scompensi ormonali o dello stress onnipresente, che è assolutamente in grado di giustificare magari delle cadute in certi momenti della vita, l'alimentazione, soprattutto nella donna, soprattutto nella giovane donna, magari che si sottopone anche a regimi dietetici per perdere peso o a certe attenzioni un po' eccessive. L'alimentazione merita spesso di essere indagata, perché la carenza di alcune sostanze nutritive, in particolare di proteine e di alcune vitamine e minerali, è assolutamente in grado di giustificare una serie di problematiche di questo genere. Quindi sarebbe bene chiedere per esempio a Sara o altre ascoltatrici o altre persone che hanno problemi. Cosa mangiate? Cosa mangiate? Mangiate sufficienti proteine, intese come proteine animali o vegetali? Dottora Voledo, la domanda potrebbe essere questa? Potrebbe essere questa. Ci sono alcuni cibi particolarmente proteici, utili, come la carne, il pesce, le uova, molto spesso sottovalutate nella dieta occidentale, perché si ritiene che aumentino il colesterolo, oppure anche i legumi tra le proteine vegetali. Si tratta di cibi che dovrebbero essere introdotti con più generosità nell'alimentazione, anche perché c'è una convinzione che la nostra dieta sia troppo ricca di proteine. È una convinzione molto diffusa, ma è del tutto falsa. In realtà mangiamo molti più carboidrati che proteine. Cito solo dei dati dell'OMS, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che dice che dovremmo assumere 1 grammo di proteine circa per chilo corporeo. Sono dati difficilmente contestabili, e 1 grammo di proteine non ci arrivano in tanti. Una persona di 60 kg, per esempio, dovrebbe mangiare, per ragionare in termini di bistecche, per esempio, 3 bistecche al giorno, perché una bistecca da un etto non contiene 100 grammi di proteine, ne contiene circa 20. Per fortuna poi le proteine sono anche in un poi sacco ci sono di comunque persone che seguono una dieta vegetariana e devono compensare, quindi, invece che una fonte proteica di origine animale, con fonti vegetali abbinate allora lì ai carboidrati. Sì, quindi legumi, frutta in guscio, noci, nocciole, mandorle, pinoli, tenendo presente che comunque, questo va detto, le proteine animali hanno una serie di altri benefici anche per i capelli, per esempio una grande quantità di zinco, uno degli minerali più importanti per il benessere dei capelli, o di ferro, e anche qua per i capelli, soprattutto nelle donne, qui hanno tendenza a perdere ferro in occasione del ciclo mestruale. Le proteine animali hanno una grande quantità, in particolare alcune di esse come la carne rossa, anche il pesce azzurro in particolare, o i crostacei e i molluschi come le seppie, le vongole, le ostriche, anche grandi quantità di ferro, soprattutto in una forma altamente assimilabile, perché è vero che i vegetali alcuni hanno ferro, i famosi spinaci di braccio di ferro, però... ma non ha un'elevata biodisponibilità, cioè non viene molto assorbito. Per i nostri amici vegetariani il consiglio è di condirli con del succhio di limone, che grazie all'acido citrico, alla vitamina C, certo, ne aumenta la biodisponibilità. Essere e benessere. Seconda passata. Son convinto che sia meglio quello giallo senza canfora. I migliori son più cari perché sono anti forfora. Dottor Ravoledo, è ancora in linea con noi? Eccoci. L'alimentazione può cambiare la salute dei nostri capelli, che può dipendere anche da quello naturalmente che mettiamo sul piatto. Ne parlavamo anche con il dottor Rinaldi, che è qua in studio con me. Un ascoltatore, dottor Ravoledo, sì, mi sta chiedendo se i miei ospiti conoscono alimenti eccezionali come l'amaranto, la quinoa. Possibile che per il ferro si pensi solo agli spinaci quando non si vuole mangiare bistecche? Dottor Ravoledo, lei le conosce o no? Hai preparato, certo, sulla quinoa? Oh, che soddisfazione! Abbiamo citato gli spinaci perché sono, come dire, nell'immaginario collettivo. Certo. I vegetali fin da bambini ci hanno educato a mangiare spinaci, ma appunto... Anche perché vogliamo anche dare dei consigli utilizzando gli alimenti che noi abitualmente mettiamo nella nostra borsa della spesa, ma ringraziamo l'ascoltatore che ci suggerisce questi due prodotti che dottor Ravoledo. Sì, sono due pseudo cereali sicuramente molto interessanti, la quinoa e l'amaranto, non facilissimi da reperire, ecco perché sì, appunto forse certo, si parla più frequentemente degli spinaci. Nei negozi di alimenti biologici si trovano la quinoa e l'amaranto, due pseudo cereali di tipo che provengono dall'estero, da paesi esotici, hanno un grande contenuto anche di proteine, quindi sono pseudo cereali proteici e sicuramente all'interno anche di una ampia varietà alimentare possono essere contemplati, molto interessanti, senz'altro sì. C'è invece un altro SMS molto interessante che riguarda le percentuali. Dottor Rinaldi, se i capelli, se l'80% degli uomini perdono i capelli, il 20% del restante, che è tra virgolette non in linea con la norma. È vero. Rappresenta, ecco. Certo, l'80% degli uomini è destinato a perdere i capelli perché l'espressione genetica si manifesta, quindi tanto poco, ma è vero, difatti tecnicamente è più normale non avere i capelli che averli da un punto di vista statistico. E questo tra l'altro corrisponde al fatto che nell'evoluzione genetica in effetti si definiscono modificazioni adattative, il corpo sta pagando la perdita dei capelli per altre condizioni più utili per lo sviluppo e per la salute. Tant'è vero che ci sono dei genetisti che pensano che nei prossimi 400-500 anni, Asimov lo scriveva sì, 40 anni fa, che probabilmente non avremo né più peli né più capelli perché questa è l'evoluzione. Questo però ci fa dire delle cose interessanti, perché se l'80% è il normale, il 20% sì, ahimè, visto che io non li ho, è un po' l'eccezione, però questa è l'espressione genetica, dicevamo prima, e quindi possiamo controllare questa espressione genetica. Allora, tanto prima ci accorgiamo, tanto più possiamo forzare la natura e stare in quel 20%, aumentare quel 20%. E a proposito di dobbiamo accorgerci che qualcosa nelle nostre chiome è a rischio. E bisogna naturalmente consultare un dermatologo, ma bisogna avere la consapevolezza di consultare qualcuno, no? L'esperto. Sì. Allora andiamo davanti allo specchio, un consiglio per gli uomini, un consiglio per le donne, perché poi il dottor Ravoledo proprio farà una distinzione di genere suggerendoci una pianta che piace molto alle chiome maschili e un olio per le chiome femminili. Dottor Rinaldi. Ma le donne si accorgono spesso che i capelli perdono massa. Sì. Perdono massa vuol dire che perdono diametro, proprio ogni singolo fusto, e quindi magari anche il numero, tant'è che una delle cose più ricorrenti di molte delle nostre pazienti tutti i giorni è: io mi facevo la coda avevo bisogno di mettere, avevo la mano piena di capelli, adesso con due dita faccio la coda. E questa è una cosa assolutamente realistica ed è vera. Poi le donne sono attente, quindi vedono questi capelli un po' più arruffati, come si diceva. Gli uomini normalmente hanno dei capelli più corti, quindi si arruffano meno e la coda non la fanno, ma vedono che a poco gli spazi aumentano, quindi per esempio la linea frontale, guardandosi allo specchio, comincia a essere o un po' più retratta o un po' più diradata. Vedono, si accorgono che i capelli sono un po' fini, brutti rispetto a prima, tanto è vero che normalmente quando i nostri pazienti fanno una cura e magari hanno una risposta positiva, cioè i capelli migliorano, capiscono e sono in grado di tornare quando magari il problema ricomincia dicendo rivedo i sintomi che vedevo. Quindi con un minimo di attenzione, ormai è possibile tra l'altro trovarli dappertutto, ci sono siti che parlano anche di questo, è possibile farsi una specie di autodiagnosi che serve solo per dire forse ho il problema, vado a farmi vedere e faccio la terapia migliore. Dottor Avoledo, io ho fatto una promessa, un'indicazione che lei avrebbe dato, un consiglio per gli uomini e un consiglio per le donne. Diamoli. Ecco. Allora, al di là delle attenzioni a tavola, per le donne, per esempio, un utilizzo cosmetico esterno di rimedi naturali, uno tra i più interessanti è l'olio essenziale di rosmarino, il comune rosmarino da cucina, ma in questo caso l'olio essenziale estratto si compra in erboristeria o in farmacia, di Rosmarinus officinalis, si diluisce in poche gocce in un olio vegetale, invece che l'olio, quello che si usa per i massaggi, magari olio di germe di grano, olio di jojoba, si diluiscono poche gocce dell'olio essenziale di rosmarino, che è quello che ha questa azione che interessante da ricercare, e si applica con un leggero massaggio sul cuoio capelluto, una volta al giorno, se si riesce anche due, soprattutto nei momenti in cui magari la caduta è un po' più abbondante, magari ai cambi di stagione, e ha un'attività di stimolazione della circolazione e dell'attività del bulbo pilifero. Molto interessante, sì, soprattutto per chi non desidera assumere niente per bocca. Certo, e questo il rosmarino è per noi, e per voi? Per gli uomini, si parlava, il dottor Rinaldi faceva riferimento prima alla calvizie androgenetica, al di là dei farmaci c'è una pianta molto interessante che ha un meccanismo d'azione molto simile, anzi analogo a quello del più comune farmaco utilizzato per la calvizie androgenetica, che è la finasteride, ed è una pianta che si chiama Serenoa repens, è indicata con tanti nomi, anche col vecchio nome di Sabal serrulata o Sopalmetto, è una palma americana, il nome giusto con cui non si sbaglia, proprio Serenoa repens, che ha un'azione antiandrogenica, si usa persino anche, agli uomini farà piacere, per contrastare l'ipertrofia prostatica, perché il meccanismo è simile, va a agire sulla conversione dell'ormone principale che c'è negli uomini, che è il testosterone. Ne abbiamo proprio parlato ieri. Ecco, il testosterone viene convertito in diidrotestosterone, che è implicato nella calvizie maschile ad opera di un enzima su cui la Serenoa agisce, e rispetto ai farmaci ha effetti più blandi, naturalmente, più modesti, però anche meno effetti dottor Rinaldi, vedo che era interessato e voleva intervenire sulla Serenoa, ma intanto noi ci teniamo al rosmarino. No, intervengo e mi complimento. Io da dermatologo normale tradizionale amo moltissimo una terapia in realtà alternativa, nel senso, se per alternativa possiamo dire sostanze che vengono dalla parte fitologica. Ci sono la Serenoa, per esempio, oppure ci sono anche altre sostanze che hanno un'azione veramente simile, e io andrei anche un po' oltre rispetto a quello che ha detto il dottor Avoledo, perché in realtà queste sostanze magari sono un po' più lente nell'agire, ma a volte funzionano assolutamente come il farmaco, e quindi possiamo ottenere dei risultati assolutamente positivi evitandoci qualsiasi problema di effetto collaterale. In realtà nella terapia naturale c'è una incredibile possibilità di cura, insomma. Grazie al dottor Avoledo per essere stato con noi. Dottore, grazie a voi, buona giornata, a prestissimo. Noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade e ritorniamo subito dopo insieme. Parleremo anche dei cugini dei capelli, che sono i peli, sono cugini o fratelli, come possiamo dire, che rapporto? Ma sono cugini anche perché hanno differenze di risposte. Essere e benessere. In centro. Hai una casa? Un appartamento. Tu in affitto? In affitto. Che cosa fai per vivere? Un sacco di cose. Dov'è il tuo ufficio? Non ce l'ho. Come mai? Non ne ho bisogno. Dov'è tua moglie? Non ce l'ho. Come mai? È una lunga storia. Hai figli? Non ne ho. Come mai? È una storia ancora più lunga. Sei il fratello di mio papà. Qual è il tuo record in fatto di domande modello interrogatorio? 38. Sono il fratello di tuo padre. Sì, ma hai molti più peli nel naso di mio papà. Sei carino a farmelo notare. Sono un bambino, è il mio lavoro. Ed eccoci tornati insieme da io e lo zio Buck. Sono i parenti stretti, dicevamo, dei nostri capelli, peli. Il dottor Rinaldi dice sì, forse anche di più, ma anche perché si comportano in modo differente, hanno delle risposte differenti. Per noi sono comunque superflui e vorremmo eliminarli, poveri peli. E notiamo spesso negli uomini che più i capelli agli uomini cadono, più crescono i peli. Sembra uno scherzo. La differenza è quella. Abbiamo in linea con noi la dottoressa Anna Trink, dermatologa. Buongiorno e bentornata. Buongiorno, grazie a voi dell'invito. Dottoressa, per noi sono superflui, vorremmo eliminarli, sono fastidiosi. È una cosa che ha un po' contagiato anche gli uomini, che adesso amano depilarsi, ma qualcosa di buono lo faranno questi peli o no? Se no, che ci stanno a fare? Ecco. Scopriamo un dardo a favore loro, anzi più di uno in realtà. Diciamo che la funzione principale, forse tuttora importante, è proprio quella di mantenere la temperatura corporea, ma poi anche per quanto riguarda la funzione tattile della nostra pelle hanno un ruolo importante, o ad esempio nelle relazioni interpersonali, nel favorire le nostre espressioni, perché anche ciglia e sopracciglia sono fatte di peli. Ci sono probabilmente peli un po' meno estetici, come quelli appunto di naso, orecchie, eccetera, ma che tutt'oggi possono avere un ruolo utile, perché quelli dei peli del naso, per esempio, in particolare in città inquinate, col livello di inquinamento in cui oggi viviamo, evitano l'ingresso di sostanze potenzialmente nocive ai polmoni, o perlomeno lo fanno in parte. Quindi direi che vale la pena tenercene un po', ecco. Ecco, noi ce ne teniamo un po', e sicuramente adesso con questa lettura abbiamo capito che i peli, anche se non ci piacciono, soprattutto in alcune zone del nostro corpo, comunque servono, ma oltre a essere superflui non possiamo che sottolineare questo aspetto, e poi ciascuno si attrezza. Una cosa invece che hanno i peli e non nostri, sono quelli degli animali a quattro zampe, e che possono provocare allergie. In linea con noi abbiamo il dottor Alessandro Fiocchi, che è direttore di allergologia pediatrica all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Buongiorno dottor Fiocchi, bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno. Dottor Fiocchi, è vero, i peli nostri li eliminiamo, i peli dei nostri amici a quattro zampe li abbiamo ovunque se li teniamo in casa, e improvvisamente possiamo diventare allergici. È così? È così. E così si scatenano le classiche riniti, i pruriti del naso, le congiuntiviti, quando il bambino va a contatto con il gatto o con l'animale del vicino, o magari con uno di quei piccoli animali da compagnia che adesso vanno tanto di moda: coniglietti, cavie, i furetti. Questa. Si può diventare allergici nel corso della vita, lei ha citato i bambini, ma anche un adulto può diventare allergico? Sì, è possibile che un adulto diventi allergico, e se posso dare una cosa che magari interessa qualche ascoltatore che è proprietario di animali, esiste anche l'allergia alla rovescia, alcuni cani sono allergici al pelo dell'uomo. Veramente? Sì, esiste anche questo, e quindi questa è una cosa che va sospettata per i proprietari di animali. Anche loro sternutiscono, si grattano, io ci rimarrei malissimo se il mio cane diventasse allergico a me. Solo i peli, per cui dottor Fiocchi, ma quando l'animale è nelle nostre case, c'è anche un'allergia ad esempio al pelo del cavallo, vero? Sì, adesso che l'ippica è uno sport che va abbastanza in voga tra i bambini, alcuni di questi, che sono allergici magari già ai pollini, quando cavalcano hanno delle reazioni importanti. Che cosa si può fare? Anzitutto, conoscendo l'animale, se è possibile evitare gli ambienti da cui è abitato l'animale, oppure premedicarsi quando si va in questi ambienti. Io ho bambini, per esempio, che sono allergici al pelo del gatto, la nonna al gatto, loro prendono una medicina prima di andare a casa della nonna e li protegge. E, dottore, volevo chiederle se è vera una cosa che si sente dire, è che comunque l'allergia, continuando a stare a contatto con l'animale, in qualche modo poi si spegne, quasi che la vicinanza con l'animale fungesse un po' da come una sorta di vaccino. È vero o è falsa? No, questo è falso. È vero che se hai tanti animali da piccolo, questo ti può proteggere nella successiva età. Ma se tu sei allergico al tuo cane, l'unico modo di tornare a tollerarlo è fare un vaccino contro l'allergia al pelo dell'animale. Grazie al dottor Fiocchi per essere stato con noi. La saluto, la ringrazio. Grazie, e le auguro una buona giornata. Buona giornata. Torniamo a parlare di peli che, con cui voi uomini venite tutti i giorni a contatto e maneggiati, che sono quelli della barba, no? Ah, sì. Che per chi si rade ogni giorno può essere un'occasione per fare una sorta di peeling al viso, perché questo si dice che la pelle degli uomini sia anche meno rugosa proprio perché fate questa, però insomma può provocare una serie di fastidiose irritazioni. Vorrei passare la parola alla dottoressa Trink, ma lei, oltre a dermatologo, è pure uomo, si fa pure la barba, per cui immagino che possa dare un consiglio ai nostri ascoltatori. Sì, tanti anni fa noi avevamo fatto un lavoro per capire qual era, uno studio per capire qual era la tecnica migliore di rasatura, a mano, rasoio a mano o elettrico. In realtà era venuto fuori che il 50% preferiva a mano e il 50% elettrico, e dipende proprio dalla pelle e dalle tecniche. Credo che si debba favorire probabilmente il rasoio a mano per la maggior parte della gente, con una tecnica molto delicata, scegliendo bene la schiuma, cambiando continuamente le lamette eccetera, e scegliendo bene la schiuma che debba essere molto idratante e permettere lo scivolamento. In un certo senso tenere la barba lunga può dare problemi di follicolite, tagliarla potrebbe irritare un po' di più la pelle, però con attenzione si può fare. Dottoressa Trink, un consiglio di 30 secondi invece per evitare il problema post ceretta alle gambe, che noi avvertiamo, perché loro usano il rasoio, noi lo usiamo magari di nascosto, ma solitamente facciamo la ceretta. Che cosa si può fare per evitare quel rossore con pustoline velocemente? Velocemente, questa purtroppo è una reazione che dipende spesso dal tipo di pelle, quindi diciamo che nel pre è meglio evitare, ma come nel post l'utilizzo di sostanze profumate o alcoliche, per esempio, e preferire invece prodotti lenitivi che abbiano, non so, per esempio aloe o beta-glicirretico, che siano effettivamente in grado di ridurre l'infiammazione post trattamento. Grazie alla dottoressa. La cosa più importante, scusi, la saluto al sole, attenzione al sole, non attenzione al sole finché la cute è infiammata. Grazie alla dottoressa Trink per essere stato con noi, al dottor Fabio Rinaldi, a Gianmarco Ferronati in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Noi ci sentiamo come sempre domani. Buongiorno dottore. Grazie, buongiorno. Essere e benessere.